7.9 e stai ascoltando Notturno Elettronico.

Elettroniche. Thank you. C'è Notturno Elettronico. Thank you. Notturno elettronico Radio Onda Rossa. Thank you.

Rossa è la radio di Fase 7. Radio Onda Rossa. Don't It's hot. elettronico su Radio Onda Rossa. We'll be right back. elettronico Radio Onda Rossa. We'll be right back.

Sei su Radio Onda Rossa 87.9 e stai ascoltando Notturno Elettronico. Notturno Elettronico. Elettronico Radio Onda Rossa. Notturno elettronico. Thank you. elettronico Radio Onda Rossa. elettronico, Radio Onda Rossa. You. notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico. Elettronico Radio Onda Rossa. Thank you.

elettronico Radio Onda Rossa. Notturno elettronico, Radio Onda Rossa. We'll be right back. Notturno Elettronico torna la settimana prossima, sempre qui su Radio Onda Rossa. Notturno Elettronico.